sì, ho visto, ho visto. Ma io c'ho il telefonino, me ne vuoi Garocci, me ne vuoi caga. Telefonino è troppo piccolo. No, io ho, ne ho due tablet, ho un po' preso quello di mia moglie che è un po' più grande del mio. E dunque si vede meglio. Diciamo che si vede bene, dai. Minchia, il mio già sono cieco. Con gli occhiali, ma me ne vuoi Garocci. Ci rinuncerò sicuramente. Come sta andando? Mi pare che è due mesi che va da la radio, bene fa? Sì, è ovvio che andare, va benissimo, 9 più 20 quasi, per cui la radio è ultima, per cui va benissimo. Non sta strappando, no? Vediamo se ho toccato qualcosa, ma l'ultima volta che l'ho accesa l'ho lasciata così. Porca miseria, io non ci ho, guarda, io l'unica cosa è non ci ho mai pensato a prendermi un tablet, forse perché no, non mi è mai servito, ma mi rubiglio e me la scarico lì l'applicazione, perché quando le partite sono su DAZN non me le fa vedere, capito? E a guardarle così dal telefonino è troppo piccolo, me ne toglie gli occhi. Sì, col telefonino è troppo piccolo, sì, io non credo, no, lì fa anche male agli occhi così. No, ma col tablet, io ho un tablet da 30 cm grande, 30x20 sarà 22, no, qualcosa del genere. Perché ne ho un altro ancora più grande, ma non funziona, non so cosa è successo. Però questo già va bene, 30 cm di tablet. Sì, beh, il tablet è tutta un'altra cosa, eh. Ti fa vedere meglio, ti fa vedere sicuramente meglio le cose, eh. Infatti ha giubito Mirogò, invece vi parata chi sa di chi sono aggretto, non ti chiama, città, cioè, chi sono aggretto da tutto. Chissà pizza, però sta giocando bene l'Udinese, eh? Sì, no, l'Udinese non ha niente da invidiare, perlomeno in questo primo tempo, ha vinto. Sì, un pochino di superiorità territoriale ha avuto l'Udinese, ma non di poco, di molto, sia no, un 2% in più nel fraseggio. Per cui no, niente. Lei, secondo me, dell'Inter è stato più che si è visto, che si è messo in evidenza, Boccafarello e Corso e Keita. Mentre invece dell'Udinese Fofana su tutti e poi Mandragora poi tra l'altro ha preso un bel colpo, una bella ginocchiata a basso ventre, insomma, già, ma comunque gli si è ripreso bene. Ma inquadrata Marotta, noi c'è mia faccia di guardo, vai a noi. L'Inter è diventato pure feo, era già feo, ora è diventato ancora più feo. Vabbè, quello vabbè, comunque adesso sicuramente farà una grande squadra, perché come direttore generale non si discute, bravo, ma è un altro che tanto è vero, aveva vinto il premio come miglior direttore generale dell'Europa, è stato premiato, non lo sapete? Sì, già l'ho saputo. L'ho saputo giù, però questa decisione io non ho capito cosa è successo con la società, però mi dispiace che l'Inter si è pigliato un altro ladro, capito? Visto che la Juventus è stata sempre ladra, hanno acquistato loro un ladro. Vabbè, quello è la stessa. Se non critico di Laringa è il primo che si viene e poi chi si spetta compra, è sempre stato così. Non credo che, intanto al prossimo anno a quanto sembra la Juve ha già prenotato Marcelo e sta parlando anche di Isco, e se prende quei due è fatta, lui o al limite prende un po' qua, adesso vediamo che cosa succede. E poi c'è anche l'altro, quello italiano, la Sanduia mi sembra che sia, io un terzino mi sembra che sia, sì, 80.000 euro ha già offerto la Juve, cioè 80 milioni ha offerto la Juve, però è in lotta con il Barcellona, perché lo vorrebbe il Barcellona, ma lui vuole andare alla Juve anziché al Barcellona. Sì, fa già fine di Gozio, alla fine in la spunta la Juventus, perché noi ci abbiamo i soldi, capito? Il nostro presidente è italiano e ci hanno 10.000 dipendenti, capito? Quindi basta che tolga 1.000 euro ognuno e compriamo chiunque giocatore, qualsiasi cosa compriamo noi. Io il gol all'interistica, se si erano ingagliati forse avrebbe fatto meglio, forse avrebbe fatto meglio, invece sta sempre fa vedendo i gazzati. Intanto ormai sono argentina, sono fa la testettina, 14 punti, così recupera, e come fa? Adesso c'è il Napoli che potrebbe anche risalire, ma bisogna stare attento, perché io ho fatto questo calcolo. Allora, per poter vincere l'Inter, la Juve deve perdere 4 partite, deve perdere, perché sono 3 per 4, 12, e non ce la farebbe nemmeno a rimuovere, 4 dico partite di BT, però l'Inter deve vincere tutti e 5, mentre invece il Napoli deve vincere 4 e la Juve deve perdere 4 per poter passare avanti il Napoli. Non mi sembra che sia così tanto facile, né per una né per l'altra. Ma manco pensando ci sto che l'Inter possa avvicinarsi a Juventus, c'è qua dai Galaveri, assolutamente, il più fattibile è un Napoli visto che adesso è fuori dalla Champions, però in Europa League, quindi avete un Milan, se esci dall'Europa League, ma l'Inter andrà in Europa League e se esci dall'Europa League. E poi andare a giocare con lo Giosso, che va nella prima squadra, che funziona bene, per carità, guarda. Non sono mai stato anti-interista io, mai, ma c'è un periodo che mi sono attaccato in volte, e allora, in volte a pezzi, non ci ho mandato un poco di vignette, con la faccia di Marotta, con un coso, e qua, a tutti stiamo andando, non manco ci gagliani. Dai, non è possibile. E se non mio fratello, ma via, non può venire l'Inter, assolutamente. Nemmeno a me non mi fa niente simpatica, penso un po', ma solo perché sono i prescritti, fratelli, dai, solo così possono vincere. Poi sa che la Juve ha intenzione di vincere 10 anni di seguito il campionato in Italia. Speriamo bene per quest'anno, però che vada bene alla Champions, speriamo, quello è importante, già ci sono squadre forti, maledizione, però c'è il Manchester City che è forte, c'è anche l'altro Manchester e c'è anche il Liverpool che è forte lo stesso, capita, dunque bisogna vedere. Vabbè, poi il Barcellona, io penso che sia il Barcellona quest'anno sia la squadra più abbordabile fra tutti quelli più pericolosi, io penso così, guarda. Sì, beh, rispetto al coso, sì, secondo me sì, rispetto alla Real Madrid, sicuramente, però anche quella c'è una bella cosa, una bella squadra, però ti ripeto, bisogna giocarla la partita, bisogna crederci fino all'ultimo con forza, come fa sempre la Juve, come fanno anche altre squadre, come il Cagliari, tu prendi il Cagliari perdendo 2-0 contro la Roma, non è riuscita a vincere la mano, la pareggiata con grande soddisfazione. Invece l'Inter non segna, non è andata alla porta, deve essersi dimenticato di andare alla porta. Ma si sta parlando che per il prossimo anno vorrebbero prendere Conte come allenatore, però Marotta ha detto, dice no, ma Spalletti è un grande allenatore, bisogna vedere se l'ha detto tanto per difenderlo. Non è escluso che Marotta che cerchi a Conte veramente, ma anche se Conte prende a Conte non sarà potenza, ecco, penso che non avremmo i giocatori, ma adesso tanto Conte è panchina, non gioca adesso, e poi Conte gli sbrava i giocatori, per carità, lui lasciamo perdere, non è come pensano loro, no. Dove la fase sono mosso, perché parateci se non putti di Marotta, mi cosa di crisi, te lo dico io per qua. quale motivo l'ha mandato via a Marotta la Juve. L'ha mandato via per il semplice motivo che non voleva Ronaldo, lui non voleva Ronaldo, non voleva. E poi voleva lui scavalcare Agnelli. Ma come fai tu a scavalcare Agnelli se quello là è il padrone della squadra che fa il Milan e tu sei un dipendente? Boh, ecco per quale motivo Agnelli l'ha mandato via, se la dà lunga, no? Non ci ha pensato due volte. Ma poi Juve, sono un attimino al telefono, un secondo solo. Vai. Eccomi. Sì, sono qua. Adesso ha ripreso la partita. Ha ripreso? Allora me la vado a vedere col coso. Altrimenti ci sentiamo dopo. Tanto alle 8:30 c'è la Juventus. Stanotte alle 8:30 giocami, no? Alle 9, però alle 8:30 la Juve. Alle 8:30, va bene. Ok, dai. Va bene. Allora vado a vedermela di là, perché qua c'è troppo buio, no, mi fate di mai veloce con il telefonino. Vado a Saloma che c'è più luce giù. Ok, lascio acceso qua, messo nel canale 10. Ok, d'accordo qua, dai. Sentiamo perfettamente un altro momento, là. Perché dopo finita la partita più o meno c'è la cena, per cui al limite ci sentiamo domani. Babu, ci sentiamo, ciao qua, alle prossime, dai, a domani. D'accordo, tanto sono a casa oggi e domani, quindi ci sentiamo qua al baracco, va bene? Se coincide magari ti chiamo dopo, adesso vado a vedermi l'altro pezzo, ciao. Ok, sì, io domani sera, dunque, alle 3 vado allo stadio qui, ai punti, per vedere i punti tirisi, finisce alle 5:15, massimo 5:30 sono a casa. Babu, ci sentiamo domani eventualmente, ciao. Eventualmente ci sentiamo domani, ciao.